Gente che saluta solo con i guanti, e qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Ed ecco che io mi interno in sardi, povertà ferne, ed ora il mio fuoco alla maestà di un dio, ed ora la mia maestà a fuoco negli dèi. Ed eccomi come Otane ad Antando, ed eccomi come Andrea nell'Oricalco, e gli eserciti di Lidia si adunano con clamore a Clazomene, e le armate di Persia si accalcano con fragore a Cuma. Così l'ottone viene all'inferno, e così di poi lo inferno viene nettato. Ed è il signore delle otto città degli uomini, arma l'ottava cinta fiammella, e l'ottima fiamma incinta eccellente. E indi cinge la sua discendenza l'eccelso, e discende lui cinto dall'eccellenza. E venne ad Otane il suo ottimismo, ed eccolo eccellere sugli ottimi, e risiedere ecco Artaferne nel limpido fuoco di Sardi, e la Sarda venire meno, minore sua ventura, e venturosa la sua minorità. Così Clito governa, tanto regna l'oscuro, e presso Sisamnine e Giovanni, ed appresso la Niche e il Vindice, e ad appressarsi è Ipparco, Piano, ed Ippia, Parco, è venuto che fu come alla corte di Vulcano, fu egli si cortese, ma poco accorto, ed Efeso incombe nella sua potestà, e la pietra del tempio di Mileto rischiara, e bianco si fa il lume, ed oscura è fatta la luce di Laodicea. Di poi, indaffarato nelle arie larghe, divenne il dio un mesto fuoco, ed infuocò il maestro, e fieri i suoi cavalieri corsero presso i cimmeri a commiserare i popoli, e Tifeo infierì, ed un fiero tifone percorse la terra di Sardi, e furono gli ateniesi presi dal tifo, e incorsero in tutta Cuma scorrerie, e Clazomene piegata fu data in potestà al principe di Alba, signore della cacciagione della cinta di ferro e delle mazzate ferraresi. Ecco qua, siamo in radio. Ciao Como Radio, Radio Studio Vivo. Io sono Marco, sono qui con Gastone. Ci conoscete? Probabilmente no, probabilmente sì, chi lo sa. Questo è un pezzo che avete sentito, che ho scritto, a cui vado a presentarlo. E diciamo così, un pezzo biblico, cioè nel senso che non è tratto dalla Bibbia, ma è basato sulla mia conoscenza della Bibbia, da me personalmente creato. Sono personaggi realmente esistiti nella storia antica e nella Bibbia, ma anche nella storia moderna e nell'Apocalissi. Sono delle località famose che attraversano i secoli nella letteratura di ogni paese, ma in particolare in quella orientale dell'Asia Minore, del Libano, della Siria e naturalmente di Israele, della Palestina. Ecco, il nostro pezzo è un pezzo che è una, diciamo così, una fondazione ad arte fondata su le tonalità così profetico, bellicose, su cui tutto l'Antico Testamento sembra insistere, anche se poi effettivamente dà messaggi di grande speranza anche l'Antico Testamento come il Nuovo, no? Ecco, basta, è anche presente nella letteratura moderna greca in questo pezzo che ho presentato, che andrà a far parte della mia nuova raccolta, che si chiama Il melograno di Meleagro, Leviatano della Via Lattea e la cetra di Melicerte. È un testo di 100 pagine, 150 pagine, adesso devo vedere di completarlo. Sta uscendo da trovare gli sponsor, quindi vedrò di trovare intanto questo pezzo, poi ve ne leggerò un altro. Questo pezzo è accompagnato da un brano dei Ministri, il famoso gruppo qui della zona, diciamo, anche loro ci mandano a cagare noi comaschi, però vabbè, fanno bene, ecco. Quindi che devo dire, si chiama Fumare perché questo Ortaferne, questo Tane, non è vero che non fumazzo. I bravi re israeliani bruciavano i boschetti, erano cose che potremmo vederli come, se fossimo vegetariani diremmo: guarda, fai male a bruciare un bosco in onore di Dio. Sì, ma noi dobbiamo vederli come boschi secchi, boschi malati, boschi come il tabacco, come queste sostanze che vogliamo fumare, che non vogliamo fumare. Vabbè, insomma, fanno soltanto una parte di quella che è la nostra vita quotidiana. Anche se fosse, se ci prendessero il 90%, sarebbe una parte, e non ce lo possono prendere il 90%. Neanche il respiro ci prende il 90%. Adesso vi faccio ascoltare questo pezzo dei Ministri. Vai, gas. Dai gas, gas, gas, dai gas. Dai gas a tazza. Vita bellissima, scelte da fare, pressione bassissima, vite diverse, stesso cronometro, mille richieste, amarsi subito, cosa vogliamo? Come ci vogliono, indistruttibili, indifendibili, il nostro incarico sembra accettabile, il nostro respiro come invisibile. Noi vogliamo fumare, soprattutto perché fa male. Perché fa male, perché per un momento almeno.